Sono nello studio, oh, voglio stare tranquillo. Ehi, il culo sopra un Lamborghini giallo nei miei sogni da quando ero un bimbo, ok. Con il culo a terra ora su un X6, ehi. Questa muove il culo a tempo su di me. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siamo sul divano, la giriamo, fumiamola assieme, va bene, va bene, va bene, va bene. Sto fumando verde, sto lontano da quelle sirene. Baby, baby, come stiamo messi, crazy, crazy. Fumo, fumo, occhi giapponesi. Siamo in quattro, mica in dieci. Vieni che mi credi, nello studio stiamo chiusi. Penso a fare i soldi veri. Sì, va bene, se mi chiami sono qui, qui, qui. Io rispondo con la testa, faccio sì, sì, sì, yeah. Sì, va bene, va bene. Ho preso le scarpe nuove, così mo scappo per bene. Capussi vuole vedermi a fianco un altro e va bene. Io voglio soldi e collane per sti ragazzi in catene. Lo faccio per il quartiere, per loro va bene. Porto chi c'è stato sempre, non solo mo che va bene. Non ti rispondo, sto in studio, yeah. Ma se tu mi chiami arrivo subito, yeah. Solo tu lo sai, altri ne dubito, yeah. Faccio gol minuto di recupero. Voglio stare tranquillo, ehi. Il culo sopra un Lamborghini giallo nei miei sogni da quando ero un bimbo, ok. Con il culo a terra ora su un X6, ehi. Questa muove il culo a tempo su di me. Va bene, va bene, va bene, va bene. Siamo sul divano, la giriamo, fumiamola assieme, va bene, va bene, va bene, va bene. Sto fumando verde, sto lontano da quelle sirene. E non mi credi, baby, non mi vedi da mesi. Sto in studio, non rispondo, tu sei Beyoncé o Jay-Z. Va bene, ok, ti porto in cima al mondo. Va bene, ok, forse ho bevuto troppo. Io con le Nike sporco, tu borsa Gucci o Fendi. E tutti gli occhi addosso, come un Ferrari rosso. Ti giuro cambierò per te, ma poi non è vero. E non mi accontento di niente, voglio il mondo intero. Persone, miei pensieri, baby, non li risolvi sti problemi. Siamo sole e luna, lady, yeah. Mi vedi solo sugli schermi, pensa quando mi dicevi che saremmo stati eterni. Ma va bene così, fumando la shit. Manco ti guardo se passi, doveva andare così. Va bene così, yeah, va bene.